Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre. Con noi al telefono ancora una volta c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Come Associazione Difesa Consumatori oggi ci parli del mercato immobiliare, perché l'abbiamo sentito anche dai radiogiornali qualche giorno fa, insomma sono ripartite le vendite e gli acquisti di case, ma mi sembra di capire che i prezzi sono comunque molto più bassi rispetto a una volta. Sì, allora diciamo che siamo ormai da qualche tempo, registriamo per fortuna anche un aumento delle compravendite immobiliari. Stiamo parlando di aumenti che però devono essere sempre paragonati a quello che è successo in questi anni, cioè noi sappiamo che dalla crisi in poi, dal 2008 in poi, le vendite sono dimezzate rispetto al 2000, ecco, rispetto a inizio secolo. Però insomma i segnali sono positivi, non tanto per la vendita in sé, quanto noi sappiamo che il mercato immobiliare, anche assieme a quello delle vetture, è il termometro dell'economia, quindi diciamo forse qualcosa sta migliorando, diciamo forse perché bisogna sempre stare attenti poi a cosa si intenda. Però noi analizziamo i dati crudi, noi vediamo che in questo caso, come emerge dal forum di scenari immobiliari che si è svolto a Santa Margherita Ligure in questi giorni, registriamo una crescita di un fatturato nazionale del 3,6%, e le compravendite continuano ad aumentare. In questo caso nel 2016 registriamo un aumento che sfiora il 15%. Cos'è che interessa però di più sicuramente ai nostri ascoltatori? I prezzi delle case. Allora, in questo caso i prezzi nel primo semestre di quest'anno sono comunque ancora in calo. Sì. Calo minimo però dello 0,9%. Ricordiamoci, Francesco, che nel 2012 il calo di prezzi era stato del 10,5%. Cosa significa? Significa che i prezzi continuano un po' a scendere, però fra un po' si fermerà questo trend e si suppone che torneranno a salire. Potremmo quindi consigliare alle persone di comprare casa adesso, possiamo dire, anche se ovviamente il prezzo è sicuramente più alto rispetto per esempio al 2012. Però insomma registriamo che per quanto riguarda i prezzi non siamo neanche tornate a un'impennata, anzi siamo ancora a un segno meno. Però, Francesco, questa è una cosa che emerge sempre da scenari immobiliari, un po' una curiosità, sì. Si è diversificato lo sconto che fa il venditore, cioè che fa il proprietario, perché se fino a qualche tempo fa si partiva da una cifra che diciamo 100 e si arrivava a 70, adesso a quanto dice scenari immobiliari si parte da 100 e se si è bravi si arriva a 90-95. Quindi vuol dire che i proprietari che da quando è iniziata la crisi hanno cominciato a svendere, tra virgolette, le proprie proprietà, i propri appartamenti, adesso cominciano a tornare alle loro vecchie pretese. E ricordiamo che molto spesso, abbiamo fatto anche delle critiche a suo tempo, sì, anche come associazione, a volte le pretese dei proprietari non erano neanche molto giustificate, molto spesso, dalla qualità dell'abitazione. Poi c'è stata la crisi, i prezzi sono scesi e quindi anche le pretese dei proprietari sono calate, e adesso si sta tornando poco a poco ai valori di una volta. Francesco, non si arriverà mai ai livelli del 2000, del 2001, 2002, perché la crisi ha cambiato comunque la struttura del mercato, certo. Tant'è che, come sottolinea sempre scenari immobiliari, in questo momento non siamo più a un mercato, al boom delle costruzioni. Ti ricordi una volta quante gru c'erano, quante case venivano costruite, e sappiamo benissimo dal 2008 in poi quante case sono rimaste invendute di quelle appena costruite. Quindi adesso sappiamo benissimo che invece il vero mercato immobiliare, quello che funziona, si muove verso il recupero, verso le ristrutturazioni, esattamente, le manutenzioni, recuperare l'esistente, anche perché giustamente di cemento ne abbiamo anche fatto colare anche troppo. Altra curiosità che emerge, e qua non so quanta gente riguardi, però emerge il fatto che in realtà la crisi non ha mai riguardato le case di lusso, gli immobili di lusso, e questa è un po' una curiosità, forse molti ne sono a conoscenza. Però diciamo che quindi gli immobili di un certo valore comunque sono sempre stati comprati anche nei momenti di crisi, e stiamo parlando di immobili che hanno questi prezzi. Vedo proprio le segnalazioni qua a Roma, arriviamo attorno ai 20.000 euro al metro quadro. Mm-hmm. e a Venezia, ecco, dalle nostre parti siamo sui 15, ma arriviamo tranquillamente anche ai 20.000 anche qua. A Milano siamo sui 13.000 metro quadro, quindi ecco, stiamo parlando di prezzi importanti, perché insomma si può arrivare per una casa di 100 metri quadri sui 2 milioni di euro. Ecco, questo è un tipo di abitazioni non conoscono crisi, quindi insomma sappiamo che c'è un tipo di clientela che insomma continua ad avere delle ottime disponibilità economiche, quindi può permettersi questa abitazione. Vabbè, fortunati loro, diciamo così. Insomma, sono sempre i poveri quelli che sentono di più i cambiamenti, no? Purtroppo è così. Va bene, allora ci hai aperto un occhio su quello che è il mercato immobiliare. Grazie a Gianluca Codognato, che ritroviamo la settimana prossima nel nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.